Il destino. Meccana numero 25 di 5 versetti. Il nome della sura deriva da versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. In vero l'abbiamo fatto scendere nella notte del destino. E chi potrà farti comprendere cos'è la notte del destino? La notte del destino è migliore di 1000 mesi. In essa discendono gli angeli e lo spirito, con il permesso del loro Signore, per fissare ogni decreto. È pace fino al levarsi dell'alba.